Buongiorno Eliana e benvenuta, anzi ben ritornata sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie, Allora, io direi di iniziare subito dalla prima cosa più visibile, che è appunto la copertina, che mi ha colpito tantissimo e mi ha anche lasciato inizialmente un po' così perplessa, perché ho detto, ma come? Willy mi aveva detto che si parlava di Polesine, di Romea, eccetera, eccetera, e si chiama Malibu. Qua c'è qualcosa che non mi torna. Allora sì, infatti, diciamo che la copertina doveva essere qualcosa che non tornava, così Perfetto. come ho cercato di raccontare un po' nelle storie. Diciamo che il mio punto di partenza voleva essere proprio qualcosa che non tornava e quindi quando è stato il momento di decidere il titolo mi è sembrato interessante usare questa parola che è in netto contrasto comunque con tutto l'aspetto visivo del libro, oltre al fatto che comunque è anche il nome di un locale che compare dentro il libro. Quindi l'ho usato un po' come pretesto e un po' come appunto voler creare appositamente questo paradosso fra immagine e titolo. Un'altra cosa che mi ha colpito sentendo anche l'intervista che hai fatto appunto nel Breakfast Club con Willy è il racconto, come dire, della tua quotidianità nel Polesine e poi questa sorta di praticamente come se ti fossi staccata, allontanata, sei un po' scappata, tra virgolette, da quella quotidianità lì per andare, penso, a Bologna per studiare, visto che hai fatto l'accademia. E mi sono un po' ritrovata in questa cosa perché anche se io vengo da una città diversa, dalle Marche, da Senigallia, non so se la conosci, Sì, e è certo. sempre una realtà di provincia abbastanza piccola, in Sì. cui insomma tutti si conoscono, c'è tanta quotidianità che proprio veramente la senti sul peso sulle spalle e anch'io in qualche modo sono un po' scappata da lì per venire anch'io sempre a Bologna, quindi anche se di città diverse, un po' mi sono ritrovata in questa cosa. Sì, infatti comunque è quello che molti mi hanno detto, anche mi ha fatto piacere comunque anche riguardo questo libro, il fatto che anche se parla di un luogo specifico, molto specifico, comunque c'è come dire, un'area di provincialità in cui molti riconoscono la propria zona di origine, magari non tanto per ovviamente il dialetto, quello che riguarda il luogo specifico, ma per questa questione di quotidianità a volte un po' opprimente e comunque quotidianità che alla fine è quella che genera più mostri, diciamo, Esatto. del caos cittadino magari. Sì, esatto, io non sono un'esperta di Polesine come Willy, ti volevo dire questo. Massimo esperto, infatti, forse è più Esatto. esperto di me, devo dire. Vabbè, sono stata solo una volta in gita alle elementari, mi sembra che ti fanno fare il giro del Po con un Sì, battello e mi ricordo esatto. giusto qualcosa, però ecco, mi sentivo comunque vicina a questo tuo racconto. Entrando un po' all'interno del libro, com'è composto, com'è la sua narrativa? Allora, io ho cercato di fare delle storie singole, diciamo che possono essere anche autoconclusive, seppur molto brevi, diciamo che la più corta va dalle 8 pagine, quindi cortissima, fino a quella più lunga che è di circa 24. Però comunque io ho ragionato per micro racconti, mentre li mettevo, li scrivevo, li componevo, ho notato che comunque c'era un ritorno e quindi di temi, di personaggi e quindi alla fine si è creato questo intreccio che finisce con l'ultima storia in cui cerco, diciamo, di dare proprio un quadro generale, di dare un termine non solo all'ultima storia in sé, ma proprio al libro. Comunque sono storie che vanno per conto loro, però comunque vanno lette anche tutte insieme poi alla fine. Certo, hanno comunque un'unione, un filo rosso che le collega, insomma. Sì. E quanto hai impiegato a scrivere questo libro? Come è avvenuta la sua composizione? Allora, l'idea in realtà ce l'ho avuta, credo nel 2016, l'idea proprio iniziale. Poi, sono andata avanti con altri lavori. Volevo fare questo libro già, nel 2017 perché, volevo farlo come tesi per l'Accademia di Belle Arti. Poi è arrivato un altro lavoro, sempre per Becco Giallo, il primo libro che ho fatto, diciamo che è stato un po' anche una prova con me stessa e nel creare un libro che fosse più lungo, diciamo. E quindi ho accantonato ancora questo progetto per lavorarci. Ho cominciato a scriverlo alla fine del 2017 e a disegnarlo l'anno scorso, diciamo, ci ho messo circa un anno per disegnarlo completamente. Bene, hai già avuto un riscontro da parte del pubblico? Hai già, come dire, fatto qualche firmacopie, visto già Non qualche ancora. lettore? Non ancora perché il primo festival a cui sarò presente sarà questo fine settimana, che è il Treviso Comic Book Festival. La prima dedica l'ho fatta in vacanza perché ho trovato il libro nella libreria Mondadori di Matera e quindi quando, diciamo, il libraio se n'è accorto che io lo stavo sfogliando un po' più degli altri, mi ha chiesto una dedica ed è stato bello. Ah, beh, è una cosa molto carina. Quindi eri in Sì. vacanza, non era per la presentazione del Sì, libro. esatto. Però io non l'avevo ancora visto e quindi vedendolo per la prima volta in libreria, Beh, insomma, mi sono fatta immagino notare. l'emozione, eh sì. Sì, sì, E sì. i prossimi eventi in cui ti vedremo, magari anche qua a Bologna, avremo piacere di incontrarci. Allora, diciamo che il primo fissato è questo di Treviso, poi sarò a Lucca. E resto ancora molto vago e da definire, però conto comunque, spero di essere a Bologna il prima possibile. Spulciando un po' la tua biografia e bibliografia, ho visto la nascita di questo collettivo Blanca. Sono andata a vedere un po' che cos'era e mi è piaciuto molto. Puoi spiegarmi meglio che cos'è Sì. Sì. questo collettivo Blanca? Sì, allora, il collettivo Blanca è nato appunto a Bologna, eravamo io e altre mie tre colleghe, diciamo amiche, che sono Martina Tonello, Noemi Vola e Irene Coletto. Abbiamo deciso di creare questo collettivo per autoprodurre dei volumi che fossero per bambini, perché ci sembrava mancasse, diciamo, una proposta alternativa valida per questo pubblico. E infatti la cosa che ci dava fastidio era un po' il fatto che si tendeva a minimizzare l'arte per bambini o comunque i contenuti che venivano proposti ai bambini. E quindi volevamo creare una cosa che desse molta più importanza ai bambini come lettori, per non sottovalutare appunto la loro capacità di capire Certo. certi messaggi e certe visioni. E quindi abbiamo dato via questo progetto con cui abbiamo pubblicato 5 volumi. Poi però nel 2017 abbiamo deciso di smettere perché ognuna di noi comunque stava prendendo strade diverse, poi abbiamo smesso di frequentare l'accademia, insomma, ci eravamo un po' sparse un po' troppo per riuscire a portarlo avanti in maniera, cioè a farlo bene come volevamo Certo. farlo. È stata una cosa molto utile, ci è piaciuto, soprattutto perché abbiamo visto che serviva e quindi insomma siamo contente di. È stata anche comunque una prova. Sicuramente era un progetto che andando avanti doveva essere migliorato, però diciamo che una base c'era e Ed era una cosa che serviva e comunque serve ancora a parlare di questi temi. Sì, guarda, io adoro l'illustrazione per bambini, nonostante io non sia una bambina e Certo, non abbia poi. figli, ma secondo me è importantissimo, è proprio un metodo Sì, di apprendimento per i bambini che è più decisamente. coinvolgente, non so come dire, e bisognerebbe puntarci di più, ecco, sono Sì. d'accordo pienamente, infatti mi è piaciuto molto, ti volevo chiedere appunto qualcosa in più. Bene, grazie mille, ti ringrazio Grazie. veramente tantissimo per la tua disponibilità.